terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Il Silvio era stato un musicista e un letterato. Aveva messo in musica alcune poesie di Paul Verlaine, Le Feuille Morte ed altre ancora. Sapeva suonare poco e male e mormorava le sue arie accompagnandosi al pianoforte con un dito solo. E intanto diceva a mia madre: «Sentiti, stupida, senti questo com'è bello!» Benché suonasse così male e cantasse con un filo di voce, era però bellissimo sentirlo, diceva mia madre. Il Silvio era molto elegante, si vestiva con grande cura, guai se non aveva i calzoni ben stirati con la piega dritta. Aveva un bel bastone col pomo d'avorio e usciva per Milano col bastone, con la paglietta e andava ad incontrarsi con i suoi amici, a discutere di musica nei caffè. Il Silvio, in quei racconti di mia madre, era sempre un personaggio allegro. E la sua fine, quando io ne seppi i particolari, mi apparve indecifrabile. C'era di lui, sul comodino di mia madre, un ritrattino scolorito, con la paglietta e con i baffettini all'insù. Accanto a un'altra fotografia di mia madre insieme ad Anna Kuliscioff, in veletta e cappelloni a piume nella pioggia. C'era poi del Silvio in casa un'opera rimasta incompiuta, il Peer Gynt. Erano alcuni grandi fascicoli in cartelle annodate con fettucce, su in alto, in cima all'armadio. «Com'era spiritoso il Silvio», diceva sempre mia madre, «com'era simpatico, e il Peer Gynt era un'opera di valore». Mia madre sperava sempre che uno almeno dei suoi figli diventasse, come il Silvio, un musicista. Speranza che rimase delusa, perché tutti noi mostravamo nei confronti della musica una sordità totale, e quando cercavamo di cantare eravamo stonatissimi. Eppure tutti volevamo tentare di cantare, e la Paola, facendo al mattino la sua stanza, ricantava con triste voce di gatto i pezzi d'opera e le canzoni che aveva sentito da mia madre. La Paola andava a volte con mia madre ai concerti, affermando d'amare la musica. Ma i miei fratelli dicevano che in verità era tutta una finzione e che non gliene importava nulla. Quanto a me e ai miei fratelli, condotti per prova a qualche concerto, c'eravamo sempre addormentati. E condotti all'opera, c'eravamo poi lamentati di tutta quella musica che non lasciava sentir le parole. Una volta mia madre mi portò a sentire la Butterfly. Avevo con me il Corriere dei Piccoli e lessi tutto il tempo cercando di decifrare le parole alla fioca luce del proscenio e tappandomi con le mani le orecchie per non sentire il frastuono. Tuttavia, quando mia madre cantava, l'ascoltavamo tutti a bocca aperta. Una volta qualcuno chiese a Gino se conosceva le opere di Wagner. «Sì, certo», disse, «il Lohengrin, l'ho sentito cantare dalla mia mamma». Mio padre non solo non amava la musica, ma la odiava. Odiava ogni specie di strumento che producesse musica, si trattasse di un pianoforte, di una fisarmonica o di un tamburo. Una volta io ero a Roma con lui, subito dopo la guerra, in un ristorante. Entrò una donna a chiedere l'elemosina. Il cameriere fece l'atto di cacciarla via. Mio padre si infuriò contro quel cameriere, urlò: «Le proibisco di cacciar via quella povera donna! La lasci stare!» Fece l'elemosina alla donna e il cameriere, offeso e rabbioso, si ritrasse in un angolo col suo tovagliolo sul braccio. La donna allora tirò fuori dal suo pastrano una chitarra e cominciò a suonare. Mio padre, dopo un poco, prese a dar segni di impazienza. I segni di impazienza che lui dava a tavola. Spostava il bicchiere, spostava il pane, spostava le posate e si sbatteva il tovagliolo sulle ginocchia. La donna continuava a suonare, piegandosi su di lui con la sua chitarra, grata a lui che l'aveva protetta, e dalla chitarra partivano lunghi gemiti malinconici. Mio padre, a un tratto, esplose. «Basta con questa musica! Se ne vada! Io non sopporto di sentir suonare!» Ma quella continuava. E il cameriere, trionfante, taceva là nel suo angolo, immobile, contemplando la scena. Thank you. Oltre al suicidio del Silvio, in casa nostra c'era anche un'altra cosa che veniva sempre velata di un vago mistero, pur riguardando persone di cui si parlava continuamente. Ed era il fatto che Turati e la Kulishov, non essendo marito e moglie, vivessero insieme. Anche in questa sorta di mistero riconosco soprattutto l'intenzione e i pudori di mio padre, perché mia madre, forse da sola, non ci avrebbe pensato. Sarebbe stato più semplice che ci mentissero, dicendoci che erano marito e moglie. Invece no, a noi, o almeno a me che ero ancora bambina, veniva nascosto che abitavano insieme. E io, sentendoli sempre nominare in coppia, domandavo perché, e se erano marito e moglie, o fratello e sorella, o cosa. Mi veniva risposto in modo confuso. Non capivo poi da dove l'Andreina, amica d'infanzia di mia madre e figlia della Kulishov, fosse schiodata fuori e perché si chiamasse Costa. E non capivo cosa c'entrasse Andrea Costa, che era morto da tempo, e che tuttavia veniva nominato spesso insieme a quelle persone. Turati e la Kulishov, nei ricordi di mia madre, erano sempre presenti. E io sapevo che erano tutti e due vivi, che stavano a Milano, forse insieme, forse in due case diverse, e che ancora si occupavano di politica, che lottavano contro il fascismo. Tuttavia si mescolavano nella mia immaginazione con altre figure, anch'esse sempre presenti nei ricordi di mia madre, i suoi genitori, il Silvio, il demente, il Barbison. Persone o morte o comunque antichissime, anche se vive ancora, perché partecipi di tempi lontani, di vicende remote, quando mia madre era piccola, quando aveva sentito dire la sorella della mia cagna e de cosa spussa l'acido solfidrico. Persone che non si potevano incontrare ora, che non si potevano toccare e che anche se si incontravano e si toccavano, non erano però le stesse di quando io le avevo pensate e che, anche se vive ancora, erano state tuttavia contagiate dalla vicinanza dei morti, con i quali abitavano nella mia anima. Avevano preso dai morti il passo irraggiungibile e leggero. «Oh, povera Lidia!» sospirava di tanto in tanto mia madre. Compiangeva così se stessa per i guai che aveva. I pochi soldi, le sgridate di mio padre, Alberto e Mario che si picchiavano sempre. Alberto che non aveva voglia di studiare e andava sempre a giocare a football. Ai nostri musi, ai musi della Natalina. Anch'io avevo qualche volta il muso o facevo capricci. Ero però una bambina e i miei musi e i miei capricci a quel tempo non turbavano molto mia madre. Mi pizzica, cominciavo a dire al mattino quando mia madre mi vestiva e mi infilava certe maglie di lana che mi davano fastidio alla pelle. Ma sono maglie buone, diceva mia madre. Sono di Neuberg. Non vuoi mica che le butti via? Le nostre maglie mia madre le comprava da Neuberg. E se una maglia era di Neuberg, doveva per forza essere buona, soffice, e non era possibile che desse fastidio alla pelle. Le maglie si compravano da Neuberg, i paltò si facevano fare dal sarto Maccheroni. Quanto alle nostre scarpe da inverno, se ne occupava mio padre e venivano ordinate da un calzolaio che si chiamava il signor Castagneri e aveva un negozio in via Saluzzo. Io entravo in sala da pranzo, ancora col muso, per via della maglia di Neuberg, e mia madre, vedendomi entrare scura, imbronciata, diceva «Ecco Maria Temporala!». Mia madre odiava il freddo. Ed era per questo che comprava da Neuberg tutte quelle maglie. Odiava il freddo pur facendo ogni mattina quella doccia gelata che le piaceva. Ma il freddo costante e penetrante dei giorni invernali, lo odiava. «Che freddo!», diceva continuamente infilandosi un golf sopra l'altro e tirandosi le maniche sulle mani. «Che freddo che fa! Io non posso soffrire il freddo!» E mi tirava giù sui fianchi la maglia di Neuberg mentre io mi divincolavo. «Tutta di lana, Lidia!» diceva, rifacendo il verso a una sua antica compagna di scuola. E diceva «Pensare che a vederti con questa bella maglia calda io mi sento tutta racconsolata!» Odiava però anche il caldo. Quando faceva caldo, cominciava a sbuffare, a scostarsi il bavero del vestito dal collo. «Che caldo! Io non posso soffrire il caldo!» diceva. E mio padre diceva «Che intollerante che sei! Che intolleranti che siete voi altri!»